quando siamo insieme è rifiorita. Si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Mi stavo abituando a stare solo e sì, ne avevo fatto un vanto, ma era una bugia. Tornavo a casa e mi dicevo è meglio, e poi scrollavo Instagram e rimanevo sveglio, guardando cani e gatti ed incidenti di gente che cadeva in modi buffi e divertenti. L'impegno sul lavoro mi aiutava a dare un senso a certi giorni vuoti, a non sentire il fallimento, perché in fondo dentro me mancava tutto quanto che poi averti accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione, quel cane, quella serie alla TV ha senso solamente da quando ci sei tu. So solo che la vita da quando siamo insieme è una figata, è un filo d'erba che spacca la pietra nel punto in cui sentivo quel dolore splende il sole. So solo che la vita da quando siamo insieme è rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. So solo che quel giorno, quella cena, quella festa con gli amici, quel giro con la bici, quel viaggio in Argentina, quel progetto, quel nome, quel biglietto di concerto, quel cinema all'aperto, quel dolore, quel tasto di ascensore, quel ritardo, quel piatto di insalata, quel giorno grigio di malinconia, la gioia e la pazzia, nella salute e nella malattia, il mio nuovo tattoo ha senso solamente da quando ci sei tu, da quando ci sei tu. So solo che la vita da quando siamo insieme è una figata, è un filo d'erba che spacca la pietra nel punto in cui sentivo quel dolore splende il sole. So solo che la vita da quando siamo insieme è rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Grazie. Siamo insieme rifiorita, potrà finire il mondo ma se accade siamo insieme, sapremo che chi ama nulla teme, nulla teme. So solo che la vita da quando siamo insieme è una figata, non è finita finché non è finita, finché non è finita, splende il sole.